Radio Boom, la finestra settimanale sul mondo universitario e cittadino. A cura della rete universitaria di Bologna. Auto-organizzazione sociale in ogni facoltà. Buongiorno a tutti e tutte in diretta dagli studi di Radio Città Fujiko dal VAG di Via Paolo Fabbri 110. Siamo qua giunti alla settima puntata di Radio Boom, la puntata in cui parleremo anche delle polemiche suscitate dal 2 giugno, cioè dalla contestazione alla parata militare, a questa sfilata di forze armate per festeggiare i 60 anni della Repubblica. Io sono Giada, sono qua con Zeppe. Saluti. Che ci fornisce insomma un chiarimento su questa giornata del 2 giugno. Sì, allora, per il 2 giugno diverse reti di movimento che in questi anni hanno anche attraversato i vari percorsi no war che sono attuati a Bologna, hanno sentito l'esigenza appunto di mettersi in relazione e organizzare congiuntamente una contestazione a quella che non può che essere letta come una ridicola messa in scena. Vedere l'Italia che si dà in mostra tramite il militarismo, tramite l'esibizione muscolare delle truppe, sicuramente non ci fa piacere. È stato organizzato un momento di contestazione assolutamente pacifico per quella che è la nostra lettura, perché fischi e pomodori sicuramente non hanno mai fatto male a nessuno e sicuramente non anche il movimento No War partecipato, attraversato anche da soggetti che particolarmente radicali non sono, negli scorsi anni ha attuato sicuramente anche forme più radicali e più dure di protesta, tanto per citarne uno, il blocco dei treni che il 20 marzo 2003 diverse migliaia di persone attuarono alla stazione di Bologna, per il quale a 3 anni di distanza sono peraltro arrivate 40 denunce. Comunque, venendo a noi invece, la contestazione della parata militare del 2 giugno è stata accolta soprattutto a livello mediatico in maniera estremamente negativa e si è arrivato a parlare di violenza, a sostenere da parte gli esponenti politici che fischiare, anche il solo atto di fischiare, sarebbe un atto violento e a dare accuse di stinguo molto pesanti. È stato per questo che, bene o male, chi aveva voluto promuovere e mettere in campo questa contestazione, cioè il Teatro Polivalente Occupato, il Circolo Anarchico Bernet di Cresch, i Comitati Unitari di Base, il Livello 57, la Rete Universitaria e VAC 61, sono usciti lunedì con un comunicato sostanzialmente di risposta e di per riprendere la parola dopo appunto questa serie di bordate mediatiche che sicuramente non hanno fatto piacere a nessuno. In particolare è parso importante chiarire alcuni punti, cioè parlare di violenza o non violenza per dei fischi pare ridicolo nel momento in cui ci sono brigate militari come la Brigata Friuli Italiana, ma penso ai carabinieri nella Siria, ma ovviamente anche le forze americane, i Marines, le forze inglesi, che sicuramente di violenza ne mettono in campo molto di più di quella che possiamo fare noi con quattro fischi. Un altro fronte di polemica è stato da parte dell'associazione Partigiani che, essendosi di fatto beccata ai fischi che diretti sicuramente alle forze armate e non ai partigiani, ha reagito dando degli imbecilli ai contestatori e lasciando dichiarazioni molto dure. L'autonomia di movimento hanno risposto sottolineando che sicuramente non viene meno il rispetto per i partigiani, ci mancherebbe altro, ma che erano nella parte sbagliata delle transenne, a nostro dire, erano trovandosi lì i fischi, come appunto si è voluto scrivere, non sono direzionabili e se li sono beccati anche loro, ma di certo non è contro i partigiani che eravamo in piazza. Comunque, tornando alla baraonda mediatica degli scorsi giorni, come retribuimento ci siamo sentiti in dovere di sottolineare che non sono certo esponenti politici, esponenti di partiti politici a dover dire in quali modi deve stare il movimento in piazza, come di fatto è successo, partiti politici dover sentire autorizzati a convocare assemblea di movimento. Il movimento riprenderà la parola con le sue forme quanto presto, c'è in cantiere un'assemblea cittadina per riaprire percorsi di conflitto contro la guerra globale e quindi invitiamo a restare in ascolto sulla radio, su Indimedia, sui vari media per così dire liberi, che sicuramente il movimento contro la guerra avrà a farsi sentire molto presto. Manderei un pezzo, poi sentiremo i compagni del collettivo di scienze politiche di Padova, ci sono notizie a quanto pare non delle migliori, le avevamo sentite, ricordo, 2 settimane fa, dopo l'occupazione di uno spazio in centro città, uno spazio molto bello, molto attraversabile, e sentiremo appunto come è andata a finire. storia non si cambia mai, un desiderio irrinunciabile, la storia insegna che ogni uomo è perfettamente corruttibile, la storia insegna e non sbaglia mai, una parola impronunciabile, la storia insegna che ogni vita è purtroppo merce di scambio. Insegna non si cambia mai, un desiderio irrinunciabile, la storia insegna che ogni uomo è perfettamente corruttibile, la storia insegna e non sbaglia mai, una parola impronunciabile, la storia insegna che ogni vita è purtroppo merce di scambio. Siamo di nuovo in diretta e dovremmo avere al telefono Caterina del collettivo Scipoll di Padova. Ciao a tutti. Ciao. Abbiamo appreso purtroppo da Indimedia che il laboratorio fuoco, ricordiamo spazio occupato il 17 maggio di cui abbiamo seguito già i primi passi collegandoci nelle scorse puntate di Radio Boom, abbiamo appreso appunto da Indimedia che purtroppo c'è stato uno sgombero. Sì, purtroppo martedì mattina all'alba sono arrivate tipo 6-7 camionette e hanno sgomberato il posto. Questo vabbè è un dato che di per sé vabbè, ha a che fare con una situazione tra virgolette contingente, nel senso hanno sgomberato uno spazio che è stato aperto che ha vissuto per 3 settimane e chiaramente però questo non ha niente a che fare con l'annullamento del progetto che ci stava sotto. Una cosa che ci interessa vabbè sottolineare è proprio il fatto che l'esperienza del laboratorio fuori controllo, cosiddetto fuoco, ha aperto in città una contraddizione enorme dopo tanti anni in cui comunque in qualche modo anche la discussione e il dibattito sugli spazi autogestiti, sugli spazi di socialità e di critica conflittuale all'interno proprio del tessuto sociale, appunto dopo anni in cui questo dibattito insomma si era un po' assopito, un po' addormentato. Abbiamo dovuto aspettare una giunta di centrosinistra per vedere come adesso tutti gli spazi vengono messi in discussione. Noi entrando all'interno di quell'edificio nel pieno cuore di Padova abbiamo deciso appunto di riportare insomma all'attenzione del dibattito pubblico del senso comune insomma che scorre nella città un problema fondamentale, cioè che Padova è una città universitaria in cui ci sono 63.000 studenti anche che vengono da tutta Italia e non c'è nessuno spazio di socializzazione, non c'è nessuno spazio aperto, autogestito in cui gli studenti, soggettività precarie, tutti quei percorsi di conflitto, di sapere critico che comunque esistono all'interno delle facoltà possono esprimersi. Noi abbiamo voluto fare questo, l'abbiamo voluto fare nel cuore di Padova, in cui fra l'altro questa amministrazione di centrosinistra ha deciso di imporre un coprifuoco. Ne abbiamo già parlato, abbiamo invitato anche qualcuno di voi a parlarne appunto nel laboratorio. Sappiamo che le giunte di centrosinistra insomma hanno questa bella particolarità di cercare di scavalcare a destra le precedenti giunte di centrodestra, soprattutto rispetto agli spazi di socialità, rispetto agli spazi di così autogestione del proprio tempo e del proprio spazio che come sappiamo all'interno anche dell'università vengono sempre più schiacciati. A Padova come a Bologna le piazze centrali, i luoghi di ritrovo tipici degli studenti vengono chiusi, gli studenti vengono espulsi e vengono spinti insomma ad andare sempre più verso l'esterno della città dove sono meno visibili, dove sono meno creano meno problemi di disturbo diciamo per il decoro pubblico delle piazze centrali. Noi abbiamo voluto sfidare questa città proprio occupando in pieno centro, dietro alla questura, dietro alle scienze politiche, dietro alla piazza degli Stritz, e questo ha provocato una serie di effetti a catena. Per cui, nonostante nella piazza centrale i bar venissero chiusi molto prima, eccetera, eccetera, la gente comunque ha trovato finalmente la possibilità di vivere e autogestire il proprio tempo esattamente dove appunto la giunta non voleva che lo facesse. Oltre a questo abbiamo finalmente avuto lo spazio per costruire momenti di autogestione dei nostri saperi, uno spazio di inchiesta, corsi autogestiti sia di lingua che di... abbiamo continuato i percorsi che avevamo cominciato all'università rispetto a percorsi critici di sapere autogestito. Naturalmente l'atto di sgomberare questo spazio dopo 3 settimane di occupazione, in cui noi abbiamo dormito lì dentro, abbiamo vissuto completamente ogni momento della nostra giornata lì dentro, è un atto insomma che politicamente dice molto, perché ha a che fare sia con l'amministrazione pubblica, che con l'università, che con la gestione dell'ordine pubblico, che anche con la presenza di invadente della curia, visto che lo spazio era proprietà anche della curia, del vescovo, che in questa città comunque insomma ha un sacco di edifici che lascia vuoti, che su cui sta speculando. Naturalmente questo spazio fa parte di un patrimonio insomma che dovrebbe essere in realtà poi restituito, come abbiamo cercato di fare noi, a tutta la città. Come dicevo all'inizio, questo percorso non è finito naturalmente, anzi ci dà qualche motivo in più per andare avanti, per riprendere a settembre questo percorso. Gli spazi liberi ce ne sono tantissimi in città, noi abbiamo semplicemente dato il là, speriamo una reazione a catena che poi anche vedendo insomma l'affluenza di persone e lo stupore che abbiamo instillato nelle persone che l'hanno frequentato, nelle tantissime persone che l'hanno frequentato, speriamo appunto che questa cosa, questa nuova possibilità che abbiamo aperto insomma si diffonda in più soggetti, in più soggettività, e poi a settembre insomma ripartiremo sicuramente più forti, più motivati e anche più organizzati, visto che 3 settimane sono state utilissime anche da questo punto di vista. Sì, le analogie con la situazione bolognese saltano di fatti all'occhio immediatamente, anche qua benché gli spazi liberi di fatto ce ne siano, in ogni occupazione si dà risposte in termini prettamente repressivi, e pare proprio, come dicevi, che la sedicente sinistra al potere, tanto nelle amministrazioni locali quanto a Roma, insomma, voglia mantenere la faccia sociale con questi strumenti repressivi, appunto, e chiudere ogni possibilità di spazio. Di spazio di agibilità politica a chi pone istanze radicali, cosa che di fatto costa dirlo, ma non veniva fatta da certe amministrazioni di centrodestra, come anche qua a Bologna, Guassaloca prima, che per quanto assolutamente fosse un infame per diversi punti di vista, ma riusciva a tenere aperto un dialogo con le stanze antagoniste, insomma. E niente, appunto, mi sa che per tutti è il caso di tirare un grosso di riprendere a respirare qualche mese, e sì, tanto qua a Bologna, tanto là a Padova, ripartire a settembre, ripartire a porre questioni, a mettere, incunearsi appunto nelle contraddizioni che università e amministrazioni cittadine ci sbattono in faccia, e insistere, di fatto non c'è altro da fare. La massima solidarietà ovviamente a tutti voi dalla redazione della trasmissione e dalla rete universitaria. Sì? A proposito di percorsi che continuano, nonostante siamo così alla fine dell'anno accademico, per cui adesso ci sono gli esami, tutti stiamo tornando a casa in qualche modo, io vorrei ricordare a tutti insomma che noi stiamo continuando a lavorare e dedichiamo queste 2 settimane alla manifestazione del 17 a Milano per la liberazione di tutti gli antifascisti arrestati l'11 marzo, e crediamo che comunque anche quella sarà un'occasione importantissima bellissima per raccogliere le fila un po' del, delle varie soggettività in movimento, ribadire insomma che la nostra autonomia e la nostra libertà non si arrestano, richiedere immediatamente la liberazione dei 25 antifascisti che sono stati sequestrati nelle gallerie di Milano e poi appunto fare cercare insomma di incontrarci tutti quanti e vedere quali semi così seminare per l'anno prossimo, per il settembre, che dovrà essere un anno di conflitto molto radicale, anche per il fatto appunto che abbiamo un nuovo governo con cui confrontarci, probabilmente sarà ancora più difficile di quello precedente. Assolutamente sì, anche la Bologna mi sembra di poter dire che arriveremo numerosi a Milano, sì, innanzitutto appunto per chiedere con tutta la nostra determinazione la liberazione dei 25 compagni ancora dentro dopo i fatti dell'11 marzo e appunto per approfittare dell'occasione per un ultimo momento di contatto, sì, di messa in condivisione di quanto fatto finora di progetti per l'anno prossimo prima dell'estate, quindi sì, anche da Bologna lanciamo con forza questo appuntamento. Perfetto, noi ci vediamo a Milano. Ci vediamo a Milano e speriamo di sentirci in momenti migliori, insomma. Più felici, infatti. Salute. Insomma, a presto. Ciao. Abbiamo visto purtroppo quante affinità legano Padova, Bologna, le altre città universitarie, dalla repressione della libera socialità alla marginalizzazione degli studenti, alla mancanza di spazi. Per questo ieri pomeriggio la rete universitaria e più altri collettivi auto-organizzati, sia studenteschi che cittadini, è scesa di nuovo in Piazza Verdi per ribadire quanto sia assurda la proposta prima fatta da AN e poi dal Questore di vietare ogni manifestazione e iniziativa politica in Piazza Verdi per i prossimi mesi. Come al solito abbiamo riempito la piazza di contenuti reali, abbiamo come sempre promosso la libera socialità dal basso e abbiamo vissuto e fatto vivere la piazza con basket di strada, aperitivo sociale, infopoint, musica. E così abbiamo creato una situazione per la quale gli sbirri hanno potuto soltanto guardare dall'esterno tutto quello che succedeva, insomma. E in più ieri abbiamo portato un contenuto ulteriore, che è quello della lotta al copyright e alla proprietà intellettuale, e abbiamo costruito un momento consapevole di violazione delle leggi sul copyright, cioè abbiamo distribuito più di 100 CD masterizzati contenenti musica, film, libri digitali, programmi di software libero e più materiale dei vari collettivi studenteschi. E niente, la risposta è stata grande dalla piazza e sono stati insomma accolti questi nostri tentativi di portare la centralità dell'argomento della condivisione dei saperi, della libera circolazione dei saperi, ai quali l'accesso è sempre più selettivo e insomma in base a ciò che uno può permettersi in termini di denaro. E poi abbiamo anche approfittato del momento per lanciare un'iniziativa che ormai è da un paio di settimane che va avanti qua al VAG, che è la biblioteca virtuale pirata, che ogni giovedì presenta un libro e poi c'è un punto insomma di masterizzazione gratuita, insomma libero accesso a internet, una libreria, condivisione di libri, eccetera. E questa sera appunto ci sarà un'iniziativa di cui Deppe ci parlerà. Sì, sì. Dovremmo avere tra l'altro tra poco in linea Anna Borghi dei ricercatori precari, perché stasera a VAG appunto è prevista la presentazione del numero 150 di inchiesta che appunto parla della rete nazionale dei ricercatori precari e di come si è mossa a partire dal 2003, ma soprattutto nel movimento di contestazione al disegno di legge, poi diventato legge, Moratti sullo stato giuridico della docenza, messo in piedi da studenti e ricercatori quest'autunno e che ha avuto culminato nella manifestazione a Roma del 25 ottobre. E stasera sono previsti diversi ospiti, avremo Vittorio Capecchi, direttore d'inchiesta, che è il direttore d'inchiesta, e Anna Carola Freschi, sempre di inchiesta della rete nazionale ricercatori di Firenze, Ilaria Venturi di Repubblica, e Andrea Capocci e Luca Leuzzi, del ricercatori precari di Roma, Silvia Sabbioni dei ricercatori precari di Ferrara, Luca Frassinetti e Francesca Menchelli dei ricercatori precari di Pisa, e ancora Michele Gianfelice da Torino, sempre ricercatore, Claudio Franchi da Napoli, e per Bologna Anna Borghi, che sentiremo tra qualche istante, Francesca Scandellari, per Pavia Andrea Fumagalli, e per la rete universitaria di Bologna come studente Alvin Palmi. Abbiamo in linea Anna? Sì, ciao. Ciao. Come procede l'attività della rete nazionale dei ricercatori precari, soprattutto a Bologna, e che appunto vede un passaggio di esposizione di presentazione importante stasera a VAG? L'incontro di questa sera è volto principalmente a presentare il numero della rivista d'inchiesta, che in qualche modo ha fatto il punto di quelle che sono state un po' le mobilitazioni dal 2003 fino alla grande mobilitazione, alla grande assemblea, alla grande manifestazione del 2005, dell'anno scorso, contro il DDL Moratti, e l'idea è anche quella di cercare di individuare come continuare, nel senso che in quest'anno in tante città, e ce ne parleranno stasera i vari ricercatori delle varie città, da Pisa a Ferrara, a Firenze, a Bologna stessa, eccetera, sono state avviate delle rivendicazioni per, diciamo così, in difesa contro la precarietà nell'università. E quindi questa sera sarà l'occasione anche di uno scambio, di un momento informativo per sapere bene che cosa si sta facendo nelle varie città per i ricercatori precari. Silvia Sabbioni, tra l'altro di Ferrara, ha dei dati di livello nazionale sul numero di precari nell'università. Come forse è noto o forse no, mentre nel lavoro in generale il precariato sicuramente non supera il 20%, all'università il precariato è intorno al 50%, quindi si tratta di un fenomeno veramente terribile e da arginare. E questa sera sarà interessante perché ci sarà Anna Carola Freschi, che è l'editor della rivista, quella che ha curato, diciamo così, per la rete nazionale precari tutto l'impianto della rivista. Per chi è interessato all'attività della rete precari di Bologna, ci siamo in diversi, affronteremo temi diversi, da quello di diverso modo di intendere la didattica a quello di un diverso modo di intendere la ricerca nell'università. E per dare un po' più di ampio respiro alla discussione ci sarà non solo un confronto sulle piattaforme, ma ci sarà anche Andrea Fumagalli dell'Università di Pavia, che parlerà delle sue proposte a proposito della precarietà più in generale, non solo universitaria. E questo è un po' quello che pensavamo di fare questa sera. Bene Anna, ti ringrazio, purtroppo dobbiamo chiudere qui perché abbiamo già sforato di qualche minuto dal nostro orario, e appunto l'invito è a esserci stasera a VAG dalle ore 18. E ciao. Ciao. E a seguire. Abbiamo un attimo un pezzo, poi chiudiamo con l'agenda. Sulla tua faccia passo l'ultima frontiera, 40 colpi a sera, chi dice ora, fine della storia, l'esercito guardiano, prima cosa spara, la notte più sicura, nei quartieri alti e cara, è un viaggio e ritorno, forse non c'è più nel giorno, passi il tuo confine e diventerai un bersaglio, la dinastia dell'ordine ha ordinato fuoco, la vita dei pezzenti vale poco, al ballo mascherato un tribuno, a te la città decisa, 40 volte al metro quadro dallo psicopatico divisa, io vengo dal mondo di sotto, il grande criminale viene dal grande salotto, nelle strade scava la trincea, cambia idea la morte, da chi la prende torna a chi la crea, notte. Perché la tentazione all'illegale resta sempre così forte. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune. Zero tolleranza per davvero. Ultima frontiera, ora spirali. Di piramidi sociali, non scondo la natura. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune. Zero tolleranza per davvero. Ultima frontiera, ora. E come sempre concludiamo la puntata di Radio Boom con l'agenda degli appuntamenti. Ribadiamo per questa sera al VAG l'appuntamento alle 18 con la presentazione della rivista trimestrale di ricerca e pratica sociale che si intitola Ricercatori precari, il futuro dell'università, e a seguire alle ore 21 ci sarà la presentazione del libro Quando suona la campanella, racconti di scuola, con Stefano Tastinari, Valerio Evangelisti e altri autori. Inoltre al VAG sabato 10 giugno Studio 61 promuove una serata Funky VAG a partire dalle ore 22-23 così. E poi ribadiamo 19, veramente, alle 19 visto anche una cena che se non sbaglio dovrebbe essere una brigliata. Va bene Zeppe, scusa, mi ero dimenticata. E poi partiamo con la lista settimanale delle varie assemblee dei collettivi auto-organizzati. Al VAG ogni lunedì alle 21 c'è l'assemblea della rete universitaria, mercoledì alle 20 ci sono le donne auto-organizzate, giovedì alle 21 c'è CASER, il collettivo di area scientifica. A scienze politiche ogni lunedì alle 15 in aula B c'è il collettivo SPA e ogni venerdì alle 17 c'è il collettivo studenti migranti, mentre nella facoltà di lettere e filosofia in via Zamboni 38, nell'aula studenti, ogni martedì alle 17 c'è il CUA e ogni mercoledì alle 16 c'è il collettivo auto-organizzato di lettere e filosofia C38. Concludiamo qua e sì, salutiamo tutti. Lancio, rispolveriamo la tradizione di dare qualche collegamento internet per approfondire gli argomenti trattati. Innanzitutto il controportale dell'auto-organizzazione universitaria www.unibo.ma.cx. Informazioni sulle attività a VAG, sia della libreria privata sia di tutto il resto, sono su www.vag61.info. Riguardo i ricercatori precari, link ricercatoriprecari.org e direi che è tutto, possiamo salutarci e dare l'appuntamento per giovedì prossimo alle 11.40, dopo sette puntate consecutive finalmente io mi levo dalle scatole e non sarò in voce. Ringraziamo Giuseppe per la parte tecnica. A lezione di regia, infatti. e salutiamo tutti. Saluti a tutti. Ciao. Radio Boom, la finestra settimanale sul mondo universitario e cittadino. A cura della rete universitaria di Bologna. Auto-organizzazione sociale in ogni facoltà.